mie donne sono poche ma carine tutte in fila. Anche tu mi potresti far sballare, anche tu. Mentre lei vuole sempre far da sola, solo lei. Le mie donne accarezzano i pensieri della notte. Io così non riesco neanche a scrivere canzoni. Mentre lei resta nuda lì a guardarmi andare via. Oh oh, io e le mie donne. Oh oh, oh oh, oh. Io e le mie donne. Oh oh, le mie donne sono sempre così diverse fra di loro. Sempre far l'amore, solo lei. Le mie donne sono briciole disperse sul mio cuore. Pensa a te, le sto cercando, spero solo di non perdermi. Così lei è scappata col postino. Andata via. Così lei è scappata col postino. È andata via.